известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. We are here to inform the leadership of this community about what happened with the arrests that were affected in the area. Avvenimenti concitati in queste ore negli Stati Uniti. La voce che ascoltate è quella di Raymond Kelly, un dirigente della polizia di New York, che sta confermando che sono stati arrestati quattro uomini accusati di progettare un attentato contro una o forse due sinagoghe nel quartiere del Bronx a New York. E l'arresto ha destato naturalmente particolare sensazione, messo in connessione con quello che sta per accadere ora a Washington fra circa un minuto, e da quelle parti sono precisi. Agli archivi nazionali Washington apparirà Barack Obama per pronunciare quello che è stato definito un major speech, ovvero un discorso portante, centrale per la sua amministrazione e le sue prospettive. Al centro del discorso di oggi la sicurezza nazionale e in particolare la questione Guantanamo, una questione assai dibattuta, perché attorno a Guantanamo stanno avvenendo i primi slittamenti, i primi cedimenti anche all'interno della maggioranza democratica, se è vero che buona parte del partito di Barack Obama non ha dato via libera al finanziamento per la chiusura e il trasferimento dei detenuti a Guantanamo. In ogni caso tutta la questione è ancora ampiamente in discussione, il dibattito sul terrorismo, su come affrontare quello che la presidenza Bush riteneva il problema numero uno, mentre Obama in realtà vorrebbe parlare di economia, ma è costretto a fare questo discorso. E tre quarti d'ora più tardi, alle 10:45 ora di Washington, 16:45 ora italiana, parlerà Dick Cheney, ex vicepresidente degli Stati Uniti d'America, raramente sulla prima pagina e alla ribalta durante gli 8 anni nel ruolo di numero 2 degli Stati Uniti, ma adesso è estremamente vocale, estremamente presente, tanto più quando si parla di sicurezza. E oggi parlerà proprio di sicurezza nei locali dell'American Enterprise Institute, uno dei principali think tank conservatori di Washington, lo stesso che viene gestito e intellettualmente forse anche dominato da una personalità come Michael Ledeen, e che gli darà ampio spazio per presentare quella che i suoi aiutanti sostengono essere una dura presa di posizione nei confronti di Barack Obama e della sua idea di chiudere Guantanamo. In pratica Cheney vuole dire state attenti, quasi sta andando su un versante assai particolare e inedito per l'America, perché si sta dando priorità ai diritti dei terroristi e comunque dei detenuti per motivazioni a sfondo terroristico nei confronti dei diritti degli innocenti e della loro sicurezza. È già collegata, sono già collegate tutte le televisioni di news americane con gli archivi nazionali di Washington. La notizia importante è che nel frattempo il ministro della giustizia Eric Holder ha annunciato che nella notte un detenuto di alto profilo di Guantanamo, il tanzanese Ahmed Gailani, sarà processato a New York come uno degli organizzatori degli attentati del 1998 contro le ambasciate americane in Kenya e Tanzania, che provocarono 224 vittime. Quindi Gailani sarà il primo detenuto di Guantanamo a venire trasportato sul suolo americano e a essere processato in un tribunale ordinario, secondo quella che potrebbe essere la soluzione di questo dibattito, ma non è detto che sia così, perché come vi abbiamo appunto detto c'è molto movimento. La nuova posizione dei democratici fa sì che non ci sia intenzione di avallare il piano di Barack Obama. Il Senato ha votato a maggioranza schiacciante 90-6 per bloccare un trasferimento di detenuti di Guantanamo in territorio americano. I democratici hanno ribadito che i fondi da 80 milioni di dollari chiesti da Obama per la chiusura del centro di detenzione non arriveranno finché la Casa Bianca non presenterà un piano assai più preciso. È una nuova posizione dei democratici, no? Se i piani economici di riforma sanitaria, di riduzione di emissione dei gas serra e altri progetti di Obama sono stati sostenuti dal partito con grande compattezza, su Guantanamo si è di fronte al primo serio inciampo dell'amministrazione. L'interrogativo è sempre lo stesso: che cosa succederà quando i 241 detenuti attualmente rinchiusi nel carcere dovranno essere spostati in altra location? È apparsa ieri, tra l'altro, un'indagine che fa sapere che uno su sette, questa è la media che è stata stabilita, di detenuti di questo tenore. È stato creato una specie di identikit medio del detenuto di Guantanamo, è destinato a tornare a svolgere attività terroristica. Naturalmente, una volta in libertà, naturalmente gli americani non vogliono che questo avvenga all'interno dei loro confini. Sta per cominciare il discorso di Barack Obama. In attesa mandiamo un po' di musica in modo di poterci sintonizzare magari con l'apertura, appunto, del discorso molto strombazzato, molto presentato dall'amministrazione. Obama vuole cercare di riportare, no, il vento in proprio favore. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there, so warm and fair, to walk with me. All summer long we sang a song, and then we strolled on the golden sand. Amigos and the summer wind, like painted kites, those days and nights they went flying by. The world was new beneath a bright blue umbrella sky. Then softer than that piper man, one day it called to you. And I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and they have gone. Still those days, those lonely days, they go on. Insomma, fa un certo effetto vedere che le televisioni americane hanno deciso di dare alla comunicazione a Milano, alla comunicazione di Cheney, la stessa legittimità e lo stesso spazio. Forse ha promesso cose importanti. Relativa a quella di Obama. Non a caso ci sono questi tre quarti d'ora di scarto, e adesso dirò una tremenda cattiveria. Obama porta 7 minuti di ritardo, Cheney comincia alle 10:45. Non vorrei che i due signori, di solito non sgarrano di 7, 8, 10 minuti, assolutamente. Si vuole sovrapporre, vuoi dire questo? Io un'ideuccia me la sto facendo, che visto che mi dai fastidio, io comincio in ritardo perché sono il presidente degli Stati Uniti d'America, e comincio un po' quando mi pare, e poi vediamo se Cheney è costretto a aspettare, che insomma un ex vicepresidente che aspetta e si mette in fila per non essere coperto dal presidente non fa un figurone. C'è forse una partita a scacchi in atto, così su livelli magari strategici, ma di strateghi questi qua ne sanno abbastanza, e ciascuno ha i suoi e belli affilati. Comunque, appunto, con 8 minuti di ritardo Obama non comincia. Noi intanto diamo notizie dal mondo. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. Anche perché oggi, tra l'altro, abbiamo in programma una sostenuta sezione cinese, per inverdire, no, i fasti Jefferson Ming. Insomma, si va da Saro. È in arrivo il nostro Saro Capozzi. Intanto ne approfitto, proprio visto che Obama non compare sugli schermi delle TV americane, per fare un piccolo volo pindarico e tirar fuori un argomento che ormai è sepolto nelle cronache, cioè quello della febbre suina, nuova influenza di cui non parla più nessuno. È uscita un'agenzia pochi minuti fa, quindi veramente ve la leggo come ci è arrivata, che viene addirittura dalla Mongolia interna, che è questa gigantesca, sconfinata, dimenticata regione nel nord della Cina, nella quale è stata chiusa una scuola dopo che 41 studenti hanno manifestato sintomi febbrili che potrebbero essere ricondotti alla febbre suina, appunto alla nuova influenza. Pare che 11 studenti abbiano 38 di febbre e sono stati ricoverati nell'ospedale locale, mentre gli altri si trovano in quarantena dentro l'istituto. Notizia un po' agghiacciante questa. Quest'ultimo dettaglio, perlomeno. È arrivato in Mongolia. Ieri, tra l'altro, a proposito di notizie che sono rimaste sepolte, pensando appunto ai fasti di Jefferson Ming, ai fasti olimpici, devo dire, ho assistito a una malinconica, voglio chiamarla così, apparizione di Michael Jordan in televisione come uno, naturalmente, dei principali sponsor e testimonial delle Olimpiadi di Chicago 2016. Ha fatto un discorso assai imbarazzato, soprattutto 50 kg sovrappeso, insomma. Beh, gli anni passano anche per i miti dello sport. Invece torniamo a scenari più seri, scenario medio orientale, Israele, il giorno dopo, il day after dell'incontro tra Barack Obama e Benjamin Netanyahu. È uscita una notizia in due tempi che, devo dire, provoca certamente qualche imbarazzo e sicuramente un bel po' di interrogativi. Come sapete, l'incontro non è stato esattamente un successone, ci sono state delle modeste mosse scacchistiche, così si sono studiati, si sono, altra partita a scacchi, sì, si sono inviati segnali, si sono detti delle cose, poi d'improvviso salta fuori che la soluzione dei due stati al conflitto israelo-palestinese sarebbe stupida e infantile, perché il problema è molto più complesso. Questo avrebbero affermato due collaboratori di Netanyahu parlando ai giornalisti sull'aereo di ritorno da Washington dopo l'incontro con Barack Obama. Il presidente Obama, che aveva ricevuto Netanyahu, ha messo in chiaro che la soluzione due stati rimane quella prevista al vertice di Annapoli, poi se rimane è quella sostenuta dalla sua amministrazione. Il premier non l'ha neanche menzionata invece la soluzione dei due stati esplicitamente nella sua conferenza stampa, una conferenza stampa congiunta che ha chiuso l'evento. Il secondo atto di questa piccola vicenda avviene poco dopo, quando praticamente l'aereo atterra e si viene a sapere che sarebbe l'attenzione posta dai mezzi di comunicazione sui due stati come soluzione al conflitto israelo-palestinese a essere stupida e infantile, cioè è sempre colpa dei giornalisti come al solito. Nego di aver descritto il concetto dei due stati in quel modo, avrebbe detto Ron Dermer, collaboratore di Netanyahu, smentendo quanto riportato dai cronisti dopo un briefing sul volo da New York. Quindi ha tirato un sasso, ha nascosto la mano, in pratica probabilmente sul volo di ritorno da Washington c'era poca contentezza per l'incontro con Barack Obama, poi le cose sono state sistemate alla meno peggio, così per tenere diplomaticamente la questione in piedi. Allora, visto che cosa ci stanno le facendo TV americane qua, sono passate alla pubblicità, o anche loro devono riempire pezzo diversivo, non lo so, no... falegnameria, sì, ecco. Sono dei bei servizi di falegnameria. Quindi, e ormai è chiaro, siamo Obama tarda, 12 minuti in ritardo, vedremo come si comporta, forse parleranno insieme, chi lo sa. La fregatura a questo punto, secondo me, è praticamente sicura. E allora, va bene, approfitto per gettare in piccionaio un'altra notizia, secondo me, sulla quale il nostro Saro, che tra poco ritroveremo in diretta da Shanghai, avrà parecchie cose da dire, perché Wen Jiabao, che è praticamente il secondo uomo più potente della Cina dopo il presidente Hu Jintao, si trova in questi giorni a Praga perché c'è l'incontro bilaterale tra Unione Europea e Cina, che ormai è una tradizione che va avanti da una decina d'anni, anche se l'anno scorso l'incontro bilaterale era saltato perché si era nel pieno del cancan del Tibet, c'erano le proteste della Francia, Sarkozy, la fiacca olimpica, quindi venne completamente annullato l'incontro tra Unione Europea e Cina, quest'anno si è invece tutto riproposto regolarmente a Praga, e Wang Jiabao ha annunciato che a breve partirà una nuova missione di quelle con 100, 200, forse anche di più esponenti dell'economia e della politica cinese che verranno in Europa a fare shopping, insomma, a stringere accordi, firmare contratti. Ricordiamo che una cosa analoga venne fatta con grande soddisfazione delle autorità cinesi a febbraio, quando tra Spagna, Germania, Gran Bretagna e altri paesi, non però né l'Italia né la Francia, che sono state escluse da questo lungo giro di manager cinesi, dicevo, questo gruppo, questa delegazione cinese ha firmato contratti per 15 billions, quindi 15 miliardi di dollari, quindi cifre davvero impressionanti. CNN si sta occupando di Suki, però c'è il riquadro in basso a destra. Sì, il processo alla leader ideologica birmana, con degli strani schizzi che rappresentano la casa, perché c'è questa questione del misterioso nuotatore americano. Rappresentano, eccolo qua il misterioso nuotatore americano con delle strane pinne fatte in casa che sarebbe andato attorno alla mansion, alla grande casa dove credo vive. Che gli schizzi fossero del processo, ma perché sì, certo, è tornato a porte chiuse, quindi... E questo invece è l'americano, che è un signore tra l'altro anche di una certa stazza. Quindi comunque coraggioso per attraversare questo lago con le pinne, deve aver fatto un bello sforzo. Il Congresso americano ha inviato la firma di Obama la riforma dell'industria delle carte di credito, che per noi è ancora, come dire, una relativa novità. Per il sistema americano è stato il modo di vivere degli ultimi 20-30 anni. La Camera, con 361 voti a favore e 64 contrari, ha dato via libera al testo approvato al Senato, che mette fine addirittura Karl Rove sta arrivando a introdurre il discorso di Obama sui teleschermi. Insomma, la Fox ha messo tutta l'artiglieria, insomma, uno che ha definito demenziale, delirante il piano economico di Obama, insomma, non credo gli farà sconti neanche oggi. Comunque, tornando alle carte di credito, Obama dovrebbe firmare il provvedimento trasformandolo in legge. Si tratta di una riforma più negativa che positiva, e che, secondo l'amministratore delegato di American Express, che si chiama Kenneth Chenault, rischia di bloccare l'accesso al credito per molti americani. Tenete presente che carte di credito per gli americani significa veramente carte di credito, o meglio di debito, cioè si acquista poi restituendo quattrini alle carte di credito in modo rateizzato. Il Presidente ritiene fondamentale proteggere i consumatori e ha spinto per questa riforma, ha spiegato Robert Gibbs, il portavoce della Casa Bianca. Molti americani dipendono dalle carte di credito perché spendono soldi che non hanno ancora, e oggi si sono assicurati un'importante vittoria che li proteggerà dalle pratiche finora utilizzate dalle società del settore, ha affermato il Presidente della Commissione Bancaria, che è quel Chris Dodd, che fu anche candidato alla Casa Bianca per le primarie democratiche. Alcuni dei cambiamenti previsti nel provvedimento, quali la notifica con 45 giorni di anticipo su eventuali ritocchi dei tassi di interesse da parte delle società di carte di credito, sono già inserite nelle nuove regole della Fed che entreranno in vigore nel 2010. Il Congresso si è anche spinto più avanti ponendo paletti per le commissioni e le pratiche sui tassi di interesse, ai quali le società emittenti e le banche avranno 9 mesi per adeguarsi. In sostanza diventano assai meno popolari, facili, invitanti e pericolose le carte di credito. Beh, una rivoluzione copernicana. Una rivoluzione assolutamente copernicana per gli americani, che non erano più abituati, anzi guardavano con un certo disprezzo chi andasse in giro con i quattrini in tasca. Noi andiamo invece a sentire un po' di musica. Obama, 17 minuti di ritardo. C'è movimento nella sala, ma un non si ritardo vede. Epocale per quello che riguarda i discorsi della Casa Bianca. Gatta Cicò, said it so those meetings. I will ever interrupt you, and I apologize. We'll pick it up at the end of the speech. President Obama. Our Secretary of State, Hillary Clinton. We have our CIA Director, Leon Panetta. We have our Secretary of Defense, William Gates, Secretary Napolitano of Department of Homeland Security, Attorney General Eric Holder, my National Security Advisor, Jim Jones, and I want to especially thank our Acting Archivist of the United States, Adrian Thomas. I also want to acknowledge several members of the House who have great interest in intelligence matters. I want to thank Congressman Reyes, Congressman Hoekstra, Congressman King, as well as Congressman Thompson for being here today. Thank you so much. These are extraordinary times for our country. We're confronting a historic economic crisis. We're fighting two wars. We face a range of challenges that will define the way that Americans will live in the 21st century. So there's no shortage of work to be done or responsibilities to bear. And we've begun to make progress. Just this week, we've taken steps to protect American consumers and homeowners and to reform our system of government contracting so that we better protect our people while spending our money more wisely. We need new tools to protect the American people, and that these tools would have to allow us to prevent attacks instead of simply prosecuting those who tried to carry them out. Unfortunately, faced with an uncertain threat, our government made a series of hasty decisions. I believe that many of these decisions were motivated by a sincere desire to protect the American people. But I also believe that all too often our government made decisions based on fear rather than foresight. Abbiamo preso delle decisioni basate sulla paura prima ancora che sulla logica, basate sul naturale, giusto desiderio di difendere la nostra nazione, ma decisioni che sono state sbagliate. Barack Obama sta con una certa drammaticità stendendo un rapporto agli americani su quello che è successo nel campo della sicurezza negli ultimi anni, naturalmente gli anni della gestione Bush. Sta per parlare di torture, perché si sta naturalmente avvicinando a parlare dell'argomento centrale di questa comunicazione, che è Guantanamo. Lui dice: la mia principale responsabilità in quanto Presidente degli Stati Uniti è garantire la sicurezza degli americani, è il mio primo pensiero non appena mi sveglio la mattina e l'ultimo pensiero non appena sto per addormentarmi. L'economia riparte, abbiamo fatto riforme storiche in campo energetico, l'amministrazione sta lavorando a pieno regime, ma state pur certi che la sicurezza resta la priorità assoluta di un presidente degli Stati Uniti, nella fattispecie di Barack Obama. Ha detto: sappiamo che Al-Qaeda vuole attaccare ancora l'America dopo neanche 8 anni dall'11 settembre. Stiamo investendo molti quattrini in una tecnologia militare che lasci indietro le dotazioni dei terroristi. Stiamo stabilendo nuove alleanze, ma soprattutto crediamo, ed è qui partito per una lunga tirata della mistica americana, di cui Obama da sempre è un grande utilizzatore, ma in questo caso è stato piuttosto sorprendente sentirlo parlare di nuovo di Bill of Rights, di Carta dei diritti di Costituzione, del fondamento della Costituzione americana come fondamento della libertà nel mondo, di cui lui stesso ha fatto un lungo risvolto biografico. Si sente incarnazione, no? Il figlio di una ragazza bianca e di un africano arrivato in America per cercare opportunità. I nostri valori sono i nostri migliori poteri di sicurezza, ha detto Barack Obama. È per questo che alla fine i nemici si arrendono sempre agli Stati Uniti d'America, perché in un certo senso perdono la fede nei loro valori messi a confronto con i nostri valori. Ascoltiamolo ancora un momento. I could not disagree more. As Commander in Chief, I see the intelligence. I bear the responsibility for keeping this country safe. And I categorically reject the assertion that these are the most effective means of interrogation. con faccia dura, quasi truce. Ora Obama salutato, tra l'altro, è un grosso applauso. Ascoltiamolo. Ha detto: nego recisamente, assolutamente, che la tortura possa essere un mezzo tollerabile di interrogatorio. Quindi ha rimandato al mittente pesantemente la, come dire, il dibattito, no? Quasi la guerra culturale che si stava svolgendo attorno al fatto che se sulla base di interrogatorio si ottengono informazioni pregnanti, allora forse poteva valere la pena. Ha negato assolutamente. In short, they did not advance our war and counterterrorism efforts, they undermined them, and that is why I ended them once and for all. E sta continuando sullo stesso tenore. Lasciamo per il momento il discorso di Barack Obama, che mi sembra avere tutte le intenzioni di mettere dei punti fermi a fronte di molti dubbi che erano stati sollevati nei confronti delle sue scelte nelle ultime settimane. Come dire, vuole riazzerare probabilmente il dibattito. Ne riparleremo più tardi, o più probabilmente anzi da domani, dedicando uno spazio di Jefferson alla questione, perché abbiamo pazientemente, e me ne scuso per questo, In ascolto da Shanghai, Saro Capozzoli, veterano di Jefferson, fondatore di IESA, società di consulenza strategica per chi vuole fare affari in Cina, reduce, e questo vada, come dire, tutto a tua colpa, caro Saro, da un festival dedicato al cibo italiano a Shanghai. In pratica sei andato a mangiare fuori, Saro, buonasera. Beh sì, è uno di quegli eventi che fa un piacere, no? Perché stasera si è visto un po' di vitalità italiana a Shanghai, no? C'erano parecchie persone, forse più di 200, la maggior parte anche cinesi, questo fa ancora piacere perché vuol dire che c'è interesse sul food italiano. È un'organizzazione, è una manifestazione organizzata da una società che produce appunto cucine industriali e poi da un'associazione si chiama appunto Italian Food Academy, appunto, che si vuole sponsorizzare da ICE e poi Ministero delle Attività Produttive, eccetera. Ecco, perché si vuole appunto sponsorizzare il modo di vivere, no, di mangiare, di vedere il food, certo, italiano, certo, attraverso sia la tecnica, come cucinare con cucine italiane, che come diciamo ingredienti, il vino, gli ingredienti, l'olio d'oliva, eccetera. Ecco. Quindi è stata una bella occasione e ha fatto piacere. Senti, si sono difesi bene, si è mangiato decentemente, insomma. Sì, diciamo c'è stata anche una piccola polemica poi, no? Fra la presidente dell'associazione dei ristoranti italiani cinesi e uno chef italiano, perché la signora è una brava signora, c'era cioè una signora un po' anziana che voleva appunto difendere anche il fatto che è stata la Cina a inventare questo secondo lei gli spaghetti. Ci siamo. E la poi vecchia questione degli spaghetti. L'Italia li ha un po' migliorati. Quando è intervenuto poi un cuoco, lo chef italiano, ha detto sì, però vediamo, diamo pane, vino e vino, voi fate il vostro cibo, noi facciamo il nostro lavoro e poi vediamo che cos'è. Bisogna distinguere, ha fatto del distinguo, è stato proprio un momento molto simpatico, no? la vecchia guerra culturale degli spaghetti. Senti, affrontiamo almeno un paio di argomenti seri, dei tanti argomenti seri che dalla Cina rimbalzano qua anche in Italia. Uno che sta occupando molto spazio nell'informazione è questa possibile, potenziale, mentre ci sono molte voci discordanti sull'esito dell'affare Opel, ma riguardo a uno sbarco della Fiat in Cina, dopo l'accordo con Chrysler, la casa torinese starebbe pensando a un'alleanza con un grande marchio cinese. Che cosa ce ne puoi dire da quella parte del punto d'osservazione? È vero? Funziona? Può funzionare? Sì, diciamo forse è la volta buona, lo posso dire, perché dopo aver visto 20 anni, diciamo, di politiche e di strategie andate un po' male, no, qui in Cina della Fiat, a parte l'Iveco che ha una storia di successo qua in Cina, infatti il deli dell'Iveco è molto comune, adesso stanno facendo un nuovo stabilimento come Iveco per produrre 65.000 autocarri pesanti all'anno, no, nella zona di Chongqing. Per quanto riguarda la Fiat come automobili appunto utilitarie, ci sono stati degli alti e dei bassi. Diciamo che bisogna andare un po' indietro nella storia. 20 anni fa la delegazione che è venuta in Europa a cercare un produttore da portare in Cina, la prima cosa che ha pensato sono andati a Torino. Purtroppo lì non hanno capito che cosa questa gente venisse a fare in Europa. Certo. La seconda tappa è stata la Germania, e 2 anni dopo c'era un grosso stabilimento della Volkswagen in Cina. Adesso se andate giù in giro per la Cina, tutta la Cina, la maggior parte dei taxi sono Volkswagen. Ora, dopo altri tentativi fatti appunto successivamente, sembra che quest'anno si possa raggiungere un accordo per una nuova joint venture a Guangzhou con un produttore, diciamo, non hanno una propria marca, ma producono macchine in partnership con già altre case. No? E perché avrebbero scelto questo partner così, come dire, un po' anonimo? Sì, e non... Sì, diciamo, è un partner che ha la capacità di, appunto, di adesso con loro stanno discutendo un impianto per produrre 140.000 vetture. Mm-hmm. E diciamo che è una buona notizia, perché sembra che anche in tutto questo movimento poi che la Fiat sta facendo in giro per il mondo abbia attratto anche le autorità cinesi, che stanno proprio mettendo questo progetto su un piano inclinato in modo da farlo andare velocemente. Quindi certo, potrebbe essere veramente la volta buona che le nostre auto, che sono di buona qualità, di ottima qualità, specialmente per questo mercato, possono finalmente sfondare in Cina, che non ha nulla che, diciamo, invidiare a macchine di altre certo, nazioni. Dunque continua corposo più che mai la comunicazione di Obama dagli archivi nazionali di Washington. Ora è nel cuore del problema a Guantanamo, di quello essenzialmente si voleva e doveva parlare. Vi rimando a domani per commenti e discussioni attorno a questo intervento e anche a quello di Dick Cheney, che seguirà subito quello di Obama, anche se svolto naturalmente in un'altra location. E invece richiamo in causa Saro Capozzoli, perché se a Milano 2015, in vista della Expo 2015, le polemiche, come dire, fioriscono ogni giorno più che i fiori di primavera, però pare che anche a Shanghai 2010 qualcosa non stia andando per il verso giusto, perché come altrimenti si può definire la possibile defiance degli americani? Niente padiglione americano all'Expo 2010. Saro, perché potrebbe avvenire una cosa di questo genere, che mi sembra un fatto anche piuttosto grave, anche forse leggermente, no, una piccola offesa nei confronti dell'iniziativa di Shanghai? Certamente non c'è una volontà americana di non venire perché c'è un motivo politico, più che altro un motivo economico. Gli americani sembra che non abbiano ancora trovato i soldi, gli sponsor per questo tipo di iniziativa. Ecco, sono iniziative che normalmente sponsorizzano gli stati, però sembra che le priorità in questo momento in America siano altre. Quindi è un qualcosa che sì, sta preoccupando un po' i cinesi, ma più che altro per un discorso di immagine, anche perché c'è questo, chiamiamolo come sempre, odio-amore verso gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono sempre stato un loro esempio, un loro riferimento, modello. D'altra parte si può registrare che 10 giorni fa c'è stata anche l'inaugurazione della prima piede per il nostro padiglione, e successivamente addirittura anche il padiglione costruito per proprio conto anche del Cile. Persino il Cile sta compiendo questo passo, verrà qui con un padiglione da 2500 metri quadrati. Quindi ci sono, diciamo, delle cose strane, ecco, paesi del terzo mondo, chiamiamo così, il mondo in via di sviluppo, chiamiamo così, ecco, non tanto non del mondo che sta nel G8, che Saro, tra qualche settimana vogliamo che vai a fare una ricognizione, che vogliamo un report, come dire, visto dai tuoi occhi di quello che sta succedendo, almeno sul padiglione italiano. Sì, ci passo ogni giorno quasi da quelle parti. Ecco. Vi posso dire questo, una cosa interessante che oggi ho saputo, è che ci sono a Shanghai 8.000 cantieri in tutta la città per rinnovare, per cambiare tubature, per riasfaltare, rifare tutto, rifare il macchinaggio di tutta la città, ma anche ne approfittano per fare nuove strutture. Quindi non è un qualcosa che riguarda solo quell'area, un'area circoscritta fra due ponti vicino al fiume, ma anche tutta la città è coinvolta, ed è qui che ci sono molti di quegli operai che hanno perso il lavoro nel Guangdong, nel sud della Cina, e ora si trovano qui a lavorare e a contribuire a questo evento. Sara, per concludere, vorrei un tuo ma telegrafico, perché siamo in chiusura, commento all'annuncio di ieri. Insomma, l'Italia sta al meno 6%, l'Europa langue al meno 3%, ma la Cina ha annunciato solennemente che il PIL 2009 arriverà al più 8%. È una notizia, come dire, per tutto perfettamente attendibile dal tuo punto di vista, e come la interpreti? Ma l'interpreto, perché il PIL in Cina è visto anche come una media di quello che è il PIL delle singole province. Quando abbiamo, vediamo, parliamo di crisi nel sud, io sentivo l'altro giorno in radio di fabbriche chiuse, città deserte nel sud, certo, della Cina, certo. Guangdong, Xiamen, e così nel Fujian ci sono città, cioè province che viaggiano al 10% o ancora all'11%, e altre vanno al 3%, al 7%, quindi mediamente siamo, diciamo, in linea con le previsioni. Io penso più che altro che sia più una coincidenza che sia capitato proprio l'8%, perché io, secondo me, all'inizio dell'anno nessuno potesse prevedere veramente questo numero, però ci sono riusciti, e un numero che è stato anche verificato dalle agenzie internazionali, quindi è una conferma di un po' la solidità dell'economia cinese, che non ha avuto impatti sulla finanza, ma diciamo stanno reagendo molto con i progetti e con gli investimenti nell'industria. Grazie, grazie a Sara Capozzi. Prosegue, mandiamo magari sullo sfondo il discorso di Barack Obama. Questo è Jefferson 2 di oggi. Sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia Valerio Rocchetti e Pietro Lacorte. La mail è jefferson2@24.it, la pagina Facebook redazione Jefferson 2, in replica a mezzanotte, la diretta domani dopo le 4. Vi lasciamo con le parole di Barack Obama in questo lungo, torrenziale discorso di cura dedicato alla sicurezza nazionale. Those are the reforms that we are now making. Instead of using the flawed commissions of the last 7 years, my administration is bringing our commissions in line with the rule of law.